la vita ha sempre corso, forte finché il fiato regge. Con il cuore a intermittenza, fermo con le quattro frecce. E mi sono perso spesso in relazioni tossiche, ma ho fatto una cosa bene, mettermi con te, mettermi con te, te, te. E gli altri che ne sanno, l'amore cos'è, quando mollano il colpo, appena si sclera. Gli altri che ne sanno, l'amore è un cliché, ma è il più bello del mondo, forever and ever. L'amore da giovane è un pacco, come limonare in un parco. Puoi rimanerci di sasso quando lei ti molla e va via con un altro. E poi piangere come fosse l'ultima volta, spaccarsi le mani a pugni contro la porta. Da ragazzino ci vai sotto pure se la storia, esagerando, è durata una settimana corta. Lui con gli amici va a sfondarsi d'alcol, lei con le amiche s'ascolta i Teen Idol. Cantano solo pezzi d'amore, ma come fanno che si innamorano almeno sei volte ad album? Poi da grande sta roba passa come l'acne, come la cotta per la più carina della classe, quella cui facevi da zerbino e driver, che poi spariva dentro un camerino con un trapper. Nella vita ho sempre corso forte finché il fiato regge, con il cuore a intermittenza, fermo con le quattro frecce. Mi sono perso spesso in relazioni tossiche, ma ho fatto una cosa bene, mettermi con te, mettermi con te, te, te. E gli altri che ne sanno, l'amore cos'è, quando mollano il colpo, appena si sclera. Gli altri che ne sanno, l'amore è un cliché, ma è il più bello del mondo, forever and ever. L'amore da grandi e per pochi, in mezzo a sta massa di idioti, avanzi di Tinder, cornuti e gold digger, è un'associazione no profit. Ci sono stati baci e moine, lanci di tazzine, viaggi di andata e ritorno al confine del mondo, ma già un altro giorno e siamo ancora qua. E gli altri che ne sanno, l'amore cos'è, quando mollano il corpo.